24, i gialli della storia. Un incidente di macchina sulla strada panoramica che domina Monaco. Il portavoce dell'ospedale ha dichiarato che il decesso è avvenuto in seguito a complicazioni vascolari. La morte della principessa Grace ha suscitato grande commozione in tutto il mondo. Monte Carlo, 14 settembre dell'82, muore in un tragico incidente la principessa di Monaco, Grace Kelly. Icona di classe, di bellezza, prima a Hollywood e poi alla corte dei Grimaldi. Una favola che è stata raccontata per 30 anni dai media di tutto il mondo, dal matrimonio trasmesso in Eurovisione ai funerali, epilogo di una morte ancora oggi misteriosa. Oggi a Mix24, il giallo della storia, riviviamo quelle emozioni con racconti, testimonianze inedite e le rivelazioni del principe Alberto di Monaco. È l'autunno del 1947. Grace è stata ammessa alla famosa Accademia d'Arte Drammatica di New York. È la prima in famiglia ad avere il coraggio di sfidare suo padre, il ricco e autoritario costruttore John Kelly. Nell'estate del 1951, Grace lascia Broadway per Hollywood. La fortuna le ha aperto una carriera promettente. Gary Cooper la vuole come protagonista femminile, bella, innocente e raffinata di Mezzogiorno di fuoco, che diventerà un classico del cinema. Dico sul serio, se non vieni via con me adesso, me ne andrò col treno di mezzogiorno. Ogni secondo la vita di un uomo scorre come le lancette di un orologio. Pochi momenti sono così emozionanti. Dopo averla vista in quel film, Alfred Hitchcock dirà: è lei l'attrice che cerco. Il regista ha visto in lei la perfetta pagina bianca sulla quale ognuno poteva dipingere con i colori che voleva. Quando le chiedono di parlare di sé, Grace è evasiva. Essere nubile a New York non è una situazione facile. Grace poi apprezza la compagnia degli uomini di una certa età. Un uomo potrebbe liberarla dalla morsa della MGM. Il famoso sarto Oleg Cassini, fresco di divorzio da Jean Tierney, un'altra star di Hollywood. Ma i Kelly sono cattolicissimi. Per Grace vogliono un matrimonio più adeguato. Durante la lavorazione del film di Hitchcock, Caccia al ladro, la vita di Grace cambia per sempre. Durante le riprese della mitica scena sulla strada panoramica di Monte Carlo, Grace scorge tra un bacio e l'altro dei magnifici giardini. Chiede curiosa: a chi appartiene quella meraviglia? Al principe Ranieri di Monaco, le rispondono. Mi piacerebbe tanto visitarli. Una primavera precoce accoglie le star di Hollywood per la consegna degli Oscar 1955. Grace è candidata per La ragazza di campagna, dove interpreta una moglie infelice e trascurata dal marito alcolizzato. Ma nessuno in realtà pensa che abbia qualche chance di vincere. Ad aprire la busta è un suo vecchio amico, William Holden. Grace Kelly con La ragazza di campagna. Dopo la vittoria dell'Oscar, Grace sparisce da Hollywood. È in vacanza alle Bahamas, annoiata dal mondo superficiale del cinema, decide di ripensare il suo futuro. Al suo ritorno, la MGM decide di non forzare le sue scelte, ma le propone di rappresentare il cinema americano a Cannes. Grace accetta con entusiasmo, sarà una scelta fondamentale per la sua vita. Il 6 maggio 1955, alle 13.30, su richiesta della rivista Paris Match, Grace accetta infatti di fare un servizio fotografico con il principe Ranieri di Monaco. Il racconto di quell'incontro è ormai nella leggenda. La partenza sulla decappottabile della MGM, il panino mangiato in fretta, il ritardo del principe, mentre Grace, con il suo abito di seta nera a fiori rosa e verdi, visita il palazzo. Finalmente Ranieri arriva e con grande semplicità la scorta in quei giardini che tanto le erano piaciuti l'anno prima, dall'alto della panoramica. Ho pensato a questi giardini tutta la notte. Un incontro breve, poco più di un'ora, ma Ranieri è stato folgorato da Grace. Spesso va da solo a Cannes, a Nizza o a Sanremo alla ricerca di un cinema che proietti il suo film preferito, Caccia al ladro, il capolavoro di Hitchcock con Grace già magicamente regale. Il resto è cronaca rosa in perfetto stile anni 50. Nelle redazioni dei giornali arriva la notizia che Grace sta per sposare un principe. È l'inizio di una favola. Il 15 dicembre del 55 il principe Ranieri di Monaco arriva a New York. Lo accompagna il reverendo Tucker, suo padre spirituale. Ma qual è il vero scopo di quella visita? Di fronte alla stampa, il principe è prudente e enigmatico, ma dopo tutto si sa che è un timido. Voci insistenti le attribuiscono le storie d'amore più diverse, l'ultima in ordine di tempo con Grace Kelly. Ha qualche commento da fare? No, ho solo incontrato Grace Kelly in occasione della sua visita al palazzo durante il Festival di Cannes. Tutto qui. Molti dicono che lei stia cercando seriamente moglie, è vero? No, non è così, non l'ho mai detto. Ah, va bene. Se lei si dovesse sposare, quale sarebbe il suo ideale di donna? Non saprei, la migliore. Cosa intende per la migliore? Ci sono quasi vicino. Quanto vicino? Non lo so, deve avere molte qualità perché io ho un pessimo carattere. La migliore è proprio Grace Kelly, la donna che Ranieri ha scelto come sposa. Al grande ballo di beneficenza dell'Hotel Astoria di New York, la futura principessa sfoggia un favoloso anello di fidanzamento con rubini e diamanti. Pochi giorni dopo la coppia incontra la stampa. Sono presenti giornalisti di tutto il mondo. Sul volto del principe si legge l'imbarazzo. Stringe la mano di Grace come un adolescente. Grace invece li asseconda. Come si sente in questo momento? Inutile dire che sono felicissima. Signora Kelly, quando ci sarà il matrimonio? Non abbiamo ancora fissato la data. Altezza, al suo arrivo lei ha negato tutto. Era per prudenza o perché non sapeva come sarebbero andate le cose? No, ero sincero, non sapevo niente. Allora è una sorpresa anche per lei? Sì, proprio come lo è per voi. E per lei è una sorpresa, signora Kelly? Sì. Allora è lui il principe azzurro. I giornalisti vedono in quell'idillio la promessa di favolose storie per decenni a venire. Il 17 gennaio Grace è a Los Angeles. Il giorno dopo inizierà le riprese di Alta Società. Per lei sono le ultime settimane a Hollywood. Ogni strada, ogni casa le ricorda un film che ha girato. Una breve felicità, a volte una delusione. Ma Grace lascia Hollywood senza rimpianti. Ranieri ha poco tempo a disposizione. I suoi doveri lo chiamano. L'affare viene rapidamente concluso. Chiuso l'accordo sulla dote e sul contratto matrimoniale firmati, il principe riprende la nave. A Monaco la notizia del fidanzamento viene accolta con sollievo. Per i monegaschi, Grace sarà la futura madre dei figli del principe, ma anche quella star che tutto il mondo gli invidierà. Durante la lavorazione di Alta Società, Grace insiste per indossare l'anello di fidanzamento del principe. Quel gioiello la protegge da tutti i pettegolezzi e le dà il coraggio di rispondere pazientemente alle domande su Monaco, che molti scherniscono per la sua minuscola superficie. La carriera di Grace Kelly finirà cantando davanti ad una troupe commossa per la solennità del momento. La data della partenza si avvicina. La MGM non intende rinunciare ai suoi diritti su Grace. Per la MGM questo matrimonio è uno spunto fantastico per una superproduzione di genere nuovo. Una fiaba, i cui protagonisti sono un principe e una principessa. La MGM affida l'abito da sposa di Grace ad Ellen Rose, una famosa costumista di Hollywood. Un abito di seta color avorio, ornato di pizzo antico di Bruxelles e arricchito di 1000 madreperle. Grace, volevo sapere... Grace, questo è un momento di grande emozione e confusione allo stesso tempo. Lasciare il tuo paese, la tua nazione e andare incontro a questa tua nuova vita. Ecco, mi chiedo, ti provoca delle emozioni particolari? Beh, Jinx, come ho già detto, già solo il fatto di sposarsi è un grande passo per qualunque donna. Naturalmente sono un po' scombussolata anch'io. È tutto molto eccitante. Io sono molto molto felice, anche se ovviamente mi dispiace dover partire. La sera del primo giorno di viaggio, affacciata al parapetto della nave Constitution, Grace, avvolta nella nebbia, è all'apparenza una donna felice. Ha certamente conosciuto molti uomini, ma quella storia d'amore non somiglia a nessun'altra. E quel sentimento nuovo la spaventa. Come sarà la sua vita nel Principato di Monaco? Monaco intanto aspetta la sua principessa. I capi della MGM vogliono sfruttare il matrimonio quanto più possibile. Il filmato del matrimonio sarà a colori. Le cineprese esalteranno quel vecchio palazzo che farà da scenografia all'ultima interpretazione di Grace. Ranieri perciò decide di rimettere a nuovo il principato. E intanto dagli schermi americani si annuncia il matrimonio del secolo. Grace arriva a Monaco con tutta la sua famiglia, sa che l'aspettano giornate molto faticose. E forse vuole essere protetta. La presenza dei giornalisti e della troupe dell'MGM non le lasceranno un minuto di tregua fino al giorno delle nozze. Anche Ranieri è innervosito dal clamore che ha raggiunto quell'evento e cerca di concentrarsi solo sul protocollo. Grace non ha ancora compiuto 27 anni. Il suo viso sembra quello di una ragazza che cerca di essere all'altezza del compito, ma dopo 4 giorni nel Principato è esausta. Ministri, ambasciatori, notabili locali, ciambellani. Non le viene risparmiato nulla. Tutti la spiano in attesa di un gesto di debolezza. E invece, nel ruolo di principessa di Monaco, l'attrice americana darà il meglio di sé. Ogni mattina il principe le regala un nuovo gioiello. Il 18 aprile Grace trova sul comodino una collana di diamanti a 3 giri. Alle 11 di quello stesso giorno, il destino di Grace, Patricia Kelly, si tingerà di rosa nella sala del trono, dove si unirà in rito civile con Ranieri Massenzio, nato Grimaldi. Lo sposo, oppresso dal calore delle luci, sembra a disagio. Grace ascolta l'ufficiale di Stato Civile sgranare i vecchi articoli del codice monegasco. Poi giura fedeltà a Ranieri con la stessa diligenza che dedicava ai suoi partner di Hollywood. L'indomani, 19 aprile, alle 10:30 le telecamere dell'Eurovisione si collegano per la trasmissione del matrimonio religioso. Ranieri Luigi Andrea Massenzio Bertrando, vuoi prendere come legittima sposa la qui presente Grace Patricia secondo il rito della nostra Santa Madre Chiesa? Sì, Monsignore. Grace Patricia, vuoi prendere come legittimo sposo il qui presente Ranieri Luigi Andrea Massenzio Bertrando secondo il rito della nostra Santa Madre Chiesa? Sì, Monsignore. E io vi dichiaro marito e moglie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fin qui una storia perfetta, una lunga storia d'amore che sarà al centro delle cronache mondane per molti anni ancora. Grace dà alla luce tre figli, Alberto, Carolina e Stephanie. Diventeranno anche loro protagonisti di tanti avvenimenti rosa e di qualche scandalo. Grace e Ranieri, sempre più discreti, interpretano il ruolo di una serena coppia al tramonto. Poi l'11 settembre dell'82 la tragedia. Mentre alla guida della sua Rover 3005S, Grace perde il controllo e finisce in una scarpata. Morirà nella notte senza aver ripreso conoscenza. E il figlio Alberto, dal 2005 principe regnante, a rivelarci in un'intervista esclusiva chi fosse veramente Grace Kelly, la ragazza di Filadelfia, la diva di Hollywood che è diventata una splendida principessa e una madre molto amata. Grande storia d'amore con un finale drammatico. Ecco, nel suo ricordo, è più viva la storia d'amore o il finale drammatico? Io penso che per la nostra famiglia quello che conta sono i ricordi, soprattutto il ricordo di una madre formidabile, un ricordo di gioia. Credo sia proprio questo ciò che resta di questa storia, un bellissimo ricordo di nostra madre. Ecco, ma comunque quella di sua madre, suo padre, è una favola che ha fatto sognare almeno tre generazioni di persone. Perché, secondo lei, qual è la cosa che ha fatto sognare di più? Per questa storia d'amore tra mio padre, il principe di Monaco, e mia madre, che era una star del cinema. Ma anche perché mia madre era una persona di una generosità straordinaria. E come madre, com'è stata come madre? È stata una madre straordinaria, piena di attenzione. Ci ha dedicato sempre molto tempo, nonostante i suoi numerosi impegni. Ci ha dato molto affetto e molta tenerezza. E nella sua vita di bambino e di ragazzo, che cosa si ricorda di più come atteggiamento di sua madre? Beh, direi i consigli che ci ha dato. Per motivi di sicurezza i miei genitori non viaggiavano mai insieme. Con lei viaggiavo io. E durante quei momenti avevamo molto tempo per parlare. Quindi è ovvio che parlassi più con mia madre che con mio padre. Ma come confidenza personale ne aveva di più con la madre o col padre? La confidenza proprio. Mio padre era un tipo più autoritario, quindi era più facile affrontare certi argomenti con mia madre che con mio padre. Che so, le uscite con gli amici. Per le uscite con gli amici era più facile chiedere a mia madre che a mio padre. Senta, però di fronte a queste favole, che sono delle favole bellissime, la gente si chiede sempre che cosa c'è dietro quello che luccica. Ecco, si dice che sua madre si è sentita un po' prigioniera anche, tutto bello, ma anche un po' prigioniera a Monaco, che avesse voglia di tornare al cinema, è vero o no? Può essere che in un certo periodo, quando era molto giovane, avesse avuto il desiderio di tornare al cinema o al teatro, due mondi che sicuramente le mancavano. Ma credo che fosse il suo dovere di madre e di principessa dedicare tutto il suo tempo a questi compiti. D'altronde, il tempo che le restava non le permetteva certo di fare altro. Senta, è un difetto? Aveva un difetto sua madre anche? Le qualità le abbiamo dette, un difetto? Le dirò, è difficile trovare un difetto in una persona così. E loro? Loro hanno litigato qualche volta, li ha visti mai litigare? Suo padre e sua madre? Credo che in tutte le famiglie ci siano discussioni, talvolta anche animate. Nel caso loro non ci sono state mai forti tensioni. Senta, e suo padre, prima di morire, le ha detto che cosa era, quali erano le qualità importanti per fare il principe? Mi ha dato molti consigli, come del resto mia madre. Ma soprattutto uno in particolare. Saper ascoltare bene le persone. Saper ascoltare bene per poi poter consigliare. E poi fidarsi delle intuizioni. Senta, abbiamo detto prima che la favola di Grace è stata una favola meravigliosa, però drammatica per il suo finale. Ecco, parliamo un momento del momento drammatico della morte. Si sa tutto o c'è qualcosa che è ancora avvolto dal mistero rispetto a quel giorno e a quella curva? Credo che non ci sia più nessun mistero. Per me, onestamente, non c'è mai stato. Tutte le cose che sono state dette o scritte sono delle esagerazioni, delle invenzioni. Preferirei non parlarne. È stata una cosa terribile e drammatica. E la mia famiglia l'ha vissuta sulla propria pelle. Con tutto il dolore che questa esperienza ha comportato. Un'esperienza terribile. Ecco, molti dicono che sua sorella, la principessa Stefania, è rimasta segnata più di tutti da quel dramma per il fatto che l'ha vissuto in prima persona, è vero? Sì, credo che mia sorella Stefania abbia sofferto molto più di quello che si possa immaginare. Senta, le faccio un'ultima domanda. Sua madre è morta nell'82. Ecco, c'è un rimpianto per qualcosa che non le ha detto e che magari vorrebbe dirle oggi? Uno dei regali che mia madre mi ha fatto quando ho compiuto 18 anni. È il poema di Rudyard Kipling, in cui a un certo punto viene detto: tu sarai un uomo, figlio mio. Credo che il consiglio migliore che mia madre mi abbia mai dato si trovi proprio in quella poesia. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it.